Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Non è la prima volta che si richiama l'attenzione sulle condizioni di lavoro dei corrieri. Ora però c'è una situazione che sta mettendo in difficoltà Poste Italiane, dal momento che il suo spedizioniere SDA ha una serie di problemi con i facchini e gli autisti che lavorano per la società e che hanno proclamato uno sciopero che va avanti da 10 giorni. Secondo le fonti sindacali Cobas, Solcobas e Sicobas, le agitazioni sono legate a un cambio d'appalto avvenuto con procedura d'urgenza nello hub di Carpiano, alle porte di Milano. SDA avrebbe affidato la gestione della piattaforma lombarda a un consorzio che avrebbe annullato alcune delle condizioni di lavoro siglate precedentemente con i sindacati. Oltre a chiedere le precedenti condizioni di lavoro, i sindacati hanno chiesto a SDA di rinviare il cambio di appalto al 1 gennaio 2018. Le sedi di Roma, Firenze, Bologna, Carpiano, Brescia e Bergamo hanno aderito a manifestazioni e picchettaggi bloccando migliaia di pacchi e consegne. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Anche il mondo dei trasporti è segnato da tensioni tra imprese e sindacati che sfociano spesso in scioperi e fermi. Tutti noi conosciamo quelli legati al trasporto pubblico che tante difficoltà creano ai passeggeri e in generale agli abitanti dei centri urbani, ma anche il settore delle merci è segnato da questi blocchi, a volte anche di diversi giorni, e che però non hanno il rilievo mediatico dei primi, nonostante i danni commerciali siano ugualmente devastanti. Ne sa qualcosa SDA, il Corriere di Poste, da settimane al centro di iniziative di blocchi e picchettaggi da parte dei COBAS, una sigla particolarmente conosciuta dalle organizzazioni logistiche. Cerchiamo allora di capire cosa sta succedendo in compagnia dei nostri ospiti, che sono Paolo Rangoni, amministratore delegato di SDA, ed Enzo Solaro, segretario generale di Fedit. Buon pomeriggio ad entrambi. Rangoni, cosa sta succedendo in SDA? Allora, il tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando su un nostro impianto, il centro distributivo di Milano, abbiamo un nostro fornitore che operava localmente, ha iniziato ad avere delle difficoltà operative con una delle due sigle sindacali presenti sul sito. Il fornitore aveva una situazione abbastanza critica al momento, che ci aveva segnalato di essere in difficoltà nel futuro nel pagare gli stipendi più prossimi e anche una difficoltà nel pagare i contributi che derivava dal fatto, l'evidenza dal fatto che aveva un'irregolarità segnalata dal sito dell'INPS. Quindi questo ci ha portato alla fine del naturale dell'appalto, che era venerdì questo, a effettuare una veloce gara per individuare un fornitore sostitutivo. Questo ha portato a una reazione molto forte da parte di una delle due sigle di sindacati di base presente sul sito, che oltre a non accettare il cambio appalto ha sostanzialmente esteso la protesta a tutti i principali centri distributivi di SDA sul territorio, anche quelli dove loro non sono presenti, dove non operano, e ovviamente con un comportamento abbastanza tipico in questi casi di non solo fare sciopero ma di impedire l'accesso al sito a mezzi uomini anche di altre sigle che vorrebbero lavorare. Rangoni, chiedo scusa, al di là di quelle che saranno le giustissime, forse sacrosante rivendicazioni dei lavoratori sulle quali non vogliamo entrare nel merito, ma quali sono le conseguenze pratiche di queste azioni? Bloccando spesso 3 centri distributivi su 4 in Italia, i 3 principali, parliamo di Milano, Bologna e Piacenza, sta praticamente più che, diciamo, dimezzando la capacità dell'azienda di distribuire pacchi in Italia. Questo ha forzato SDA a dare indicazione ai propri clienti di non consegnarci pacchi che non eravamo in grado di smistare, e ovviamente alcuni clienti, in maniera ovviamente autonoma, hanno deciso di non servirsi più di SDA e quindi di rivolgersi ad altri corrieri. Ecco, questa potrebbe essere una buona notizia per gli altri corrieri, ma in realtà non lo è, perché anche loro sono un po' vittima di questa situazione. Enzo Solaro, segretario generale di Fedit, perché il mondo della logistica è così sensibile all'azione di queste sigle sindacali di base? È determinante affascinato dal modello organizzativo di questo business. La caratteristica del mondo dei Corrieri Espressi è la capacità di portare le merci da un punto all'altro in un tempo dato, che è un tempo rapido. È un'organizzazione complessa che ha dei centri di raccolta, di smistamento e di snodo. Se tu blocchi i gangli del sistema, il sistema salta, e quindi anche sigle che hanno una rappresentanza non estesa su tutto il territorio nazionale, ma molto aggressive, con comportamenti al di là dei limiti della legalità, bloccano 2-3 centri di smistamento e mandano in tilt l'intera rete. Di questo i COBAS, anche con un atteggiamento spregiudicato, sono consapevoli e lo utilizzano con un intervento inesistente delle istituzioni, che invece dovrebbero garantire il rispetto pieno della legalità, non tutelare noi rispetto ai lavoratori, ci mancherebbe, ma tutelare il rispetto della legalità e il diritto di un'impresa di lavorare, assieme a quello di chi vuole fare sciopero di farlo. Su questo devo anticiparti che abbiamo chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Interno, perché sono collegate le due questioni, e da breve ci hanno detto dovrebbe aprirsi un tavolo con il governo per affrontare queste questioni. Nel caso di SDA, quali sono le criticità che sono emerse in questa trattativa? Devo un chiarimento. Le legittime rivendicazioni dei lavoratori erano state dalla prima all'ultima soddisfatte nella giornata di venerdì, quando io, assieme ai rappresentanti dell'SDA, abbiamo avuto un incontro con il SICOBAS, ed in quella sede abbiamo confermato la disponibilità su tutte le questioni di merito sindacale, di tutela dei sacrosanti e dei legittimi diritti delle persone. Lo scontro qui ha una natura ben differente. Rangoni, ritorniamo invece alle conseguenze. Cosa potrebbe succedere se dovesse perdurare questo stato di blocco, e quindi se SDA dovesse continuare a perdere clienti sostanzialmente? Sì, ma allora, solo per integrare quanto detto da segretario Anzasolaro, l'iniziativa e il supporto delle istituzioni è esagerato definirlo inesistente. Sicuramente abbiamo avuto difficoltà iniziali nell'attivare questo supporto. I COBAS sono molto più veloci nell'attivarsi di quello chiaramente che può fare un'istituzione pubblica. Nelle ultime notti abbiamo avuto sicuramente più supporto, quindi ci sono stati almeno due siti che hanno operato grazie all'intervento della forza pubblica, che ha consentito di operare, di entrare. Chiaramente si muovono molto più rapidamente i sindacati di base con 4 macchine che vanno a bloccare i siti aggiuntivi di quanto l'attivazione delle forze dell'ordine riesce a fare, no? Quindi lo sforzo c'è, ma evidentemente non è ancora tale da consentirci di operare regolarmente su tutta la rete. Le conseguenze evidentemente sono importanti, perché un conto sono i volumi che siamo noi che stoppiamo, che chiediamo di non darci, ma evidentemente ci sono decine, se non centinaia, di clienti che hanno scelto di mandare altrove le loro merci, e comunque abbiamo ancora tanta merce bloccata nei nostri cosiddetti tubi, per cui ci capita di avere prodotti di cui non sappiamo l'importanza evidentemente per il destinatario, ma possiamo immaginare che non solo gli ordini e-commerce su Amazon, ma anche tantissimi altri prodotti, se usano un Corriere Espresso è perché abbiano una certa urgenza, che può essere familiare, certo, o di business. Abbiamo decine di migliaia di prodotti che giacciono ancora nelle nostre filiali, nei nostri hub, nei nostri centri distributivi, senza poter raggiungere il destinatario. Questo ha anche avuto un impatto sul servizio pubblico, perché parte di questi pacchi sono anche, perché SDA opera anche come ente distributore del servizio pubblico di Poste Italiane, quindi anche migliaia di pacchi del servizio pubblico non sono stati recapitati al destinatario. Ecco, proprio Fedit poco tempo fa aveva promosso l'adozione di uno strumento contrattuale che in qualche modo potesse contenere anche questo tipo di rivendicazioni, migliorando tra l'altro le condizioni di lavoro all'interno dei magazzini, se non sbaglio. Le 4 aziende principali di Fedit hanno tutte quante, ed è stata un'iniziativa importante, qui purtroppo non segue una presa di responsabilità di queste sigle, ma abbiamo sottoscritto accordi che non solo